minuti esclusivo. La Gazzetta intervista il super testimone cipriota, ex tesoriere della Federcalcio di Cipro, che dice: così vi hanno truffato, gli europei che sono stati assegnati alla Polonia sono stati pagati con milioni di euro i funzionari dell'UEFA che dovevano decidere, e siete stati truffati voi dell'Italia che eravate candidati, corrotti. La Gazzetta dello Sport. Votate il sondaggio e noi andiamo al GR. 24 mattino. L'intervista. Eccoci qua ancora, ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8.23 minuti. La ospite della nostra intervista di oggi è Milena Gabanelli, conduttrice di Report. Buongiorno Gabanelli. Buongiorno. Senta, ieri ancora sul Corriere della Sera si legge di una RAI di voci che danno per sicura la cancellazione delle tutele assicurative, della tutela legale al suo staff in caso di cause. E sappiamo che una causa è stata intentata proprio dal presidente del Consiglio Berlusconi. Lei cosa ne sa al riguardo? Se fossi un uomo mi toccherei. Però possiamo aggregarci, insomma, per solidarietà. Dunque, a me queste sono voci che girano, però nessuno mi ha detto direttamente nulla. Allora, io sto lavorando con un gruppo di autori che sono freelance, che lavorano sapendo quali sono le condizioni, gliele cambi in corso e non gliele dici, non so. Sarebbe anche un problema. Penso che il passo successivo è una martellata in un occhio. Credo che non se lo meritino, e si pensa di cambiare alcune clausole nei contratti, i diretti interessati debbano essere informati o no? Da chi dovrebbe essere direttamente informato? Immagino dal direttore generale della RAI, no? Ma sì, dal direttore generale o dal suo staff. Che però in questo momento, leggendo anche oggi i giornali, ecco, cosa dobbiamo pensare? Cosa deve pensare un lettore? Si legge la politica con Bersani e l'UDC e Casini che dicono si dimetta, vada via, la RAI nella bufera. Questi sono i titoli che si leggono sui giornali. È davvero così da chi la vive dall'interno, da chi lavora in RAI? Lei è un serpente? No. Allora io non sono nemmeno una dipendente, ho contratti che scadono ogni anno e lei mi vuol far dire che il direttore generale si sarebbe da cacciare? No, no, no, per carità, che clima c'è? Questo sì, ce lo può dire. Ma l'ha mai incontrato personalmente? Certo, almeno tre volte. E almeno personalmente che tipo è? Insomma? È un signore alto col gessato. Molto elegante. Va bene, va bene. Che clima c'è? Io sto con la mia redazione a 500 metri, in via Teulada, non in viale Mazzini. In via Teulada ci sono quasi tutte, buona parte delle redazioni che fanno programmi che vanno in onda e che spiegano l'esistenza di una RAI, no? Cioè, se no non ci sarebbe, se non ci fossero, certo, una serie di persone che fisicamente fanno le cose in mezzo a tante difficoltà tecniche, operative, insomma tante. Mi piacerebbe vedere più spesso i vertici dell'azienda lì, dove si produce quello che giustifica anche il loro incarico. Senta, le chiedo, la causa civile intentata da Berlusconi, la sua trasmissione, secondo lei è lecita? Lei ha detto: se si sente diffamato faccia pure causa. Ma su questo non ho dubbio, io amo troppo poter criticare per non riconoscere agli altri lo stesso diritto, ma ci mancherebbe altro. Però io non l'ho ancora ricevuta e quindi non so che cosa mi contesta, perché questo io lo conosco a memoria, quel pezzo me lo sono ripassato anche a memoria, a volte anche la notte a letto mi ripasso quel pezzo a memoria e mi chiedo in quale punto si è sentito diffamato, in quale punto si è detto una cosa non vera, perché poi questo è il fatto, no? È vero, non è vero. Allora, dalle dichiarazioni fatte non mi sembra che ci sia nulla. perché nessuno ha detto che lui ha comprato illegalmente, nessuno ha detto che lui ha evaso, nessuno ha detto che lui è il reale proprietario di quell'area lì, di quelle ville. La domanda era solo: da chi hai comprato? Un'ultima domanda è questa: perché c'è, a mio modo di vedere, un atteggiamento abbastanza odioso ormai in Italia da anni, di catalogare giornalisti a dire sono di sinistra o di destra? Per esempio l'accusano di fare delle inchieste politicamente indirizzate. Perché siamo arrivati a questo livello? Cioè o si è catalogati o se no non... O se no non si è. O se no non si è. Non lo so, è così? Chiaramente non è così nei fatti, è così nell'opinione pubblica. E perché? Cioè perché siamo arrivati a questo? È così nell'opinione pubblica, sei vissuto così dai colleghi che invece sono più schierati o comunque sono più ideologizzati, perché non è pensabile che esistano teste indipendenti. Siccome molte non lo sono, e io le dico, è la cosa che mi fa più soffrire di questo mestiere, perché non ho mai fatto attività politica, non sono neanche mai andata a un convegno organizzato da qualche sigla politica, e così quelli che lavorano con me, e credo che in 13 anni abbiamo dimostrato che ne abbiamo per tutti, insomma, proprio siamo slegati dalla politica. Il punto è che dal 2001, tranne la breve pausa di un anno e mezzo prodiana, ci sono sempre gli stessi. Quindi quando ti occupi di giornalismo d'inchiesta, ovunque tu vada, qualunque argomento tu decida di toccare, in fondo c'è sempre un ministero, che sia dello sviluppo, che sia dell'ambiente, che sia della giustizia, dell'istruzione, della salute. Domenica prossima noi ci occupiamo di petrolio, piattaforme in Italia, Louisiana, lontani, ma in fondo a tutte le storie ci sono poi le autorizzazioni che devono essere concesse, sì, le bonifiche da fare, ministero dello sviluppo, ministero economico. Chi c'è in questo momento lì? E allora, se tu vuoi leggere qualunque cosa che uno faccia in chiave antigovernativa, lo puoi fare, perché tu vai a chiedere, sì, a quello, e vai a chiedere perché? Perché c'è una cosa che non va. Io mi devo fermare qui. Intanto la ringrazio, non sono un serpente, ma insomma. Ci saluti Masi se lo reincontra. Non mancherò. Buona giornata, ovviamente. Arrivederci. Milena sale. Gabanelli, conduttrice, fondatrice, insomma, ideatrice di Report su Rai 3. Grazie, ci fermiamo. Tra poco il sondaggio. 24 mattino. Eccoci qua alle 8:36 minuti, siamo pronti per il nostro sondaggio di oggi. Io sono o blanco o negro. Gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Succede al comune di Pont-Saint-Martin in Val d'Aosta, dove delle famiglie non pagano la mensa e si ritrovano con nome e cognome sul sito del comune dicendo: eccoli qua, quelli che non pagano la mensa, con tanto anche di nome e cognome dei bimbi. Qualcuno dice una gogna mediatica, altri dicono no, a Pont-Saint-Martin hanno fatto bene, perché è una trasparenza. Che ne pensate? Dovete votare su Radio24.it, vi state dividendo per il momento il 52%, ma poca differenza rispetto al 50% dice è sbagliato. Ne saluto il sindaco di Pont-Saint-Martin, Guido Ioia. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Mi dia buongiorno pure il voto alla pronuncia del suo cognome, sia Magnani. No, benissimo, è bravissimo. Otto possiamo dire. La ringrazio. Alessandro Giglioli, buongiorno, eccoci. Buongiorno Alessandro, come stai? Bene, bene, giornalista dell'Espresso, autore del blog seguitissimo Piovono Rane, che ieri ha definito, come l'hai definito, una vaccata clamorosa, imperdonabile questa decisione del sindaco. Con riferimento ai bambini, sì, che è ben chiaro, poi ne parliamo. Riferimento ai bambini. Sindaco, perché avete fatto questa gogna mediatica? Così. Bisogna precisare che questo è stato un atto, una determina che è redatta dagli uffici preposti per il recupero di somme che dovute al comune, ed è stato l'atto finale verso degli utenti che non hanno creduto di accedere alle esenzioni previste dalle nostre normative, quali previste ad esempio per le famiglie con situazioni reddituali, sì. Quindi erano famiglie che dovevano pagare, non hanno chiesto l'esenzione, non hanno pagato i requisiti. Per quanto non hanno pagato? Non hanno pagato per diverso tempo. Pensi che ci sono dei debitori che hanno raggiunto i 1.500 euro. Se teniamo conto che la refezione scolastica un pasto costa 3,50 euro giorno, è un bel cumulo, ecco. Nonostante questo bisogna precisare che sì. Noi non abbiamo mai assolutamente interrotto il nostro servizio. Quindi i bambini hanno sempre mangiato tranquillamente, non è mai stato interrotto il servizio di somministrazione dei pasti, nonostante ci fosse questo debito. Però insomma avete messo nomi, cognomi delle famiglie anche con tanto di bambini, ed è qui Alessandro Giglioli, ecco, tu hai definito questa una vaccata clamorosa e imperdonabile. Qua c'è il sindaco, facciamogli tutti gli appunti del caso. Allora, intanto non faccio appunti a sorpresa sul fatto che si pubblichino sul web dei nomi di evasori fiscali. Io sono favorevole in linea di massima alla trasparenza e all'uso della rete come strumento di trasparenza, tenendo conto che il più grosso patrimonio che noi abbiamo e che noi avremo sempre di più in futuro sarà la reputazione, la web reputation, il rating che la gente, che le altre persone, che le istituzioni daranno di noi online. Quello che io contesto al sindaco è stato di mettere i nomi dei bambini, perché questo secondo me è stato un errore clamoroso, forse dovuto al fatto che il sindaco ignora, ma forse no, nel caso però che non lo ignori è peggio, che quei nomi restano e quindi è possibile che rimbalzino di sito in sito e che fra 20 anni in qualche modo, fra 10 anni, fra 15 anni, qualcuno ancora trovi che quei bambini vengano da famiglie che hanno compiuto questo gesto. Che hanno pagato. Tra l'altro sia ben chiaro, trasparenza va benissimo, io sono favorevole a ogni forma di trasparenza anche online e credo che chi ruba i soldi alla collettività e non paghi le mense debba essere sanzionato anche con quella che alcuni hanno definito pubblica gogna, ma io non sono fra quelli. Se avessero pubblicato solo i nomi degli adulti si poteva discutere magari delle modalità, magari del fatto che andavano avvertiti prima che i loro nomi sarebbero stati pubblicati, non so se l'hanno fatto, ma i bambini no, perché fra 20 anni questi bambini si portano ancora dietro il segno di questo errore che secondo me ha compiuto il sindaco. Tra l'altro, adesso glielo chiediamo. Tra l'altro un ascoltatore ci chiede, potevano fare la lista al contrario, dire chi ha pagato, ma perché, voglio dire, ma è normale pagare, cioè perché dovremmo mettere l'elenco? Mica è virtuoso pagare una cosa per la quale la legge ti dice che devi pagare, insomma, e quindi è così, bisogna pagare e basta. Però sindaco, questo è il punto, lei non si difenda dicendo non l'abbiamo deciso politicamente ma è stato un funzionario che ha applicato una delibera, insomma, nella massima trasparenza, va bene, questo è quello che è successo, è il motivo per cui. Però perché quei bambini lì segnati, marchiati da questa cosa a vita, perché sul web è così? No, io condivido in pieno quanto ha detto il signore che mi ha preceduto, condivido in pieno, infatti ho già provveduto affinché questi nomi vengono oscurati ed è già stato fatto. Però lei sa che su internet le cose rimangono sempre, cioè ormai il danno è fatto, voglio dire. Lo so, di questo siamo tutti dispiaciuti. Condivido, come dicevo, che i nomi dei bambini non debbono essere inseriti in questi atti amministrativi, questo è deprecabile che sia stato fatto. È stato fatto per un eccesso di zelo, probabilmente da parte del funzionario preposto a redare queste determine. Tra l'altro è stato fatto in buona fede, ecco, non certamente con la volontà di mettere la gogna a nessuno, ma solamente per, come ripeto, per un eccesso di zelo. Però perché le chiedo, sindaco, lei dice le abbiamo provate tutte, le abbiamo chiesto i soldi da tempo, non erano persone che avevano l'esenzione dal pagamento della refezione scolastica per il reddito basso, quindi era gente che doveva pagare e che non pagava, questo è il dato di fatto oggettivo. Però l'estrema misura del dire ecco chi non paga. Cioè, capisce che in un paese che fa quante anime, penso non tantissime, no? Pont Saint-Martin. No, guardi, allora bisogna spiegare. Tutti ne parleranno. Non è assolutamente una misura che noi abbiamo preso per dire ecco chi non paga. È che c'è una procedura, c'è una normativa. Noi verso chi non paga adottiamo questa procedura, se brevemente posso elencare. Inviamo inizialmente degli SMS avvisando che c'è un debito nei confronti dell'amministrazione. Successivamente vengono contattati telefonicamente, invitati presso gli uffici o anche presso di me per invitarli a presentare richieste di esenzione dove ce ne siano i requisiti oppure per concordare una rateizzazione. In seguito si parte con le raccomandate, se anche questo non è esito. Per ultimo, essendo un tributo in evaso, è prevista dalla legge l'ingiunzione per arrivare al pagamento, come per qualsiasi tributo, che può essere la tassa rifiuti, certo. O una semplice multa. E per fare questo gli uffici finanziari fanno una determina. Sulla determina c'è l'elenco dei genitori che sono debitori, e per giustificare la causa del debito hanno inserito anche il nome del minore, mentre potevano semplicemente mettere il nome del genitore. È successo il patatrac lì. Allora, Alessandro Giglioli, rimani qui col sindaco. C'è anche un altro sindaco che voglio salutare, da lui andremo dopo le informazioni sul traffico. Gianangelo Boff, buongiorno sindaco di Tarzo. Buongiorno. Tarzo in provincia di Treviso, Lega come partito. Tra un attimo sono da lei. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. E allora col sindaco di Pont Saint-Martin, Alessandro Giglioli dell'Espresso, stiamo cercando di capire che cosa abbia portato il comune di Pont Saint-Martin a denunciare pubblicamente su internet chi non ha pagato la mensa, con tanto di nome anche dei bambini nel comune. Come ha detto, c'è anche il sindaco di Tarzo, Treviso, Gianangelo Boff. Tutti ricordiamo le polemiche, no, della famosa Adro, dove il sindaco Lancini sospese il servizio mensa a chi non pagava. Lei, ed è stato sottolineato da alcuni giornali, non so se le fa piacere, il leghista in controtendenza, secondo me è un po' una stupidata. Comunque, lei della Lega ha stanziato che cosa? 10.000 euro per pagare la retta all'asilo dei bimbi? Così? Praticamente i 10.000 euro sono distanziati a sostegno degli asili parrocchiali, avevano una carenza di bambini e quindi rischiavano di saltare alcune sezioni. Abbiamo fatto un calcolo sui bambini nati in quegli anni e ci siamo accorti che un certo numero di bambini non frequentavano l'asilo, quindi abbiamo combinato più cose, quindi il fatto di aiutare gli asili con un contributo in cambio del fatto che questi asili prendessero iscrivessero questi bambini avrebbe portato a molteplici benefici: il fatto che questi bambini potessero frequentare l'asilo, l'inserimento nel tessuto sociale comunque di bambini che sarebbero rimasti emarginati, e anche l'apprendimento un po', diciamo, della lingua italiana e delle basi per poi arrivare in prima elementare e non costituire intralcio per il proseguo delle lezioni. Per cioè, ma lei sospenderebbe mai, per esempio, il pasto a un bambino che non, a una famiglia di un bambino che non paga? Intanto il collega della Val d'Aosta non ha sospeso il pasto. Lui sì, no, certo. Mai si può sospendere un pasto a un bambino, né differenziarlo, cioè il bambino non riesce a capire la discriminazione. Il fatto che comunque molte famiglie, perché poi noi pensiamo che in realtà che non pagano siano quelli in realtà con problemi sociali, invece non è sempre vero. No, a me è successo, mi succedono moltissimi casi. L'altro giorno veniva una signora da me chiedendomi perché anche i suoi bambini potessero non pagare la retta dell'asilo. Guardo dalla finestra, osservo fuori, c'era una macchina da circa 60.000 euro. Ho spiegato alla signora che con l'auto con la quale lei era venuta a trovarmi in comune, probabilmente avremmo pagato le rette dei bambini di un asilo per un anno intero. Quindi ho detto, signora, cioè, non abbia un po' di decenza almeno quando viene a chiedere qualcosa. No, però lei sindaco, su questo vorrei coinvolgere Giglioli, ha detto che in un'intervista dare 1.000 euro a un bambino di 3 anni mi costa meno che intervenire quando ne avrà 16 o 17 con problemi magari. Cioè investire sui bambini, investire sul nostro futuro. Che cos'è Alessandro Giglioli, un illuminato, un leghista, Credi, buono? Credi, ma infatti io vorrei, se posso, che questo dibattito non si confondessero due piani completamente diversi. Cioè le rette si pagano e chi non paga la retta è come un evasore fiscale. Non ci sono mazzi su sta roba, scusate, io sono molto duro con i genitori che non pagano. Se non possono pagare, facciano richiesta di esenzione. Questo è un tema. L'altro tema, completamente diverso, è mettere online i nomi dei bambini. Il sindaco si è già scusato, il sindaco di Ponte, ma attenzione, non è che basta scusati, ho sbagliato, perché internet è uno strumento molto potente, da maneggiare con molta cura. Io vorrei sapere chi è il funzionario che ha messo online, perché probabilmente, io non sono un avvocato, ma probabilmente ha commesso un reato di violazione della privacy, e quindi trasparenza deve valere per tutti. Signor sindaco, gentilmente ci dica chi è il funzionario che ha sbagliato, possibilmente lo metta anche online, perché un conto è mettere online i nomi dei genitori, i bambini online non si mettono, e chi lo fa non è che fa una cosa stupida, non è che fa un eccesso di zelo. Scusi, signor sindaco, ma definire un eccesso di zelo è veramente una sciocchezza. Ha fatto una cosa molto grave. Sindaco, che ha fatto con questo funzionario? L'ha chiamato, ci ha parlato? Certamente. Tra l'altro è un ottimo funzionario che svolge bene il suo lavoro. Può aver fatto un errore, insomma, capita a tutti. Ha fatto un errore. E che succede, quindi? Però non, ad un primo errore non ripetiamo un altro. Non penso che, se riteniamo che si è sbagliato a mettere online questi nomi, non penso che poi comportarsi nello stesso modo nei confronti del funzionario. Cioè, se gogna è stata la prima volta, non facciamo un'altra gogna. Non facciamo un'altra gogna. Però Giglione... Sui nomi dei bambini, ma non sui nomi dei funzionari. Mi faccia capire come funziona qua. La burocrazia che si autopreserva, che si mettono online i nomi dei bambini e non i nomi dei funzionari che hanno sbagliato, ma qua si va veramente assurdo. I nomi dei funzionari sono senz'altro online sul sito del comune, allora, quindi andando a vedere qual è la pianta organica. Vuole questo nome, ce lo faccia, sindaco, non so, o ci dica come trovare, ce lo faccia, su, non è un problema, chi ha fatto questa cosa? Ma c'è un funzionario che agisce materialmente, poi c'è il responsabile dei servizi finanziari, che è il nostro segretario comunale, che dovrebbe trasparenza per tutti, dice Alessandro Giglioli. Sentiamo un paio di ascoltatori che ne pensano. Roberto da Caserta, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Dica. Niente, io volevo dire, per me è un fatto molto grave questo, perché ritengo che ci sia una lesione del diritto alla riservatezza di queste persone. E la riservatezza è un diritto costituzionalmente garantito. Beh, ho capito, riservatezza, però anche se uno non paga, cioè forse anche se uno non paga, c'è tutta una però la procedura è chiara, guardi che ce l'ha spiegata il sindaco, SMS, raccomandate, poi gli hanno chiesto la riscossione coatta, insomma, di quanto dovuto, e per fare questo c'è una delibera che pubblica chi deve le cose, insomma. Da questo punto di vista, Roberto, non credo che sia stata infranta la legge, lei dice di sì. Cioè, praticamente il comune aveva altri sistemi per... Ma li ha provate tutte? No, ma allora, se io sono un privato e ho un credito verso un certo tizio, vado dall'avvocato, il quale chiaramente effettuerà una procedura esecutiva, ci sarà un pignoramento mobiliare, che sia, dipendendo. Ma per fare questo pignoramento bisogna, ci ha spiegato il sindaco, pubblicare la lista di coloro che di fare una delibera nella quale si dice Pinco Pallino non ha pagato, cioè dal punto di vista della legge. Il problema è che questa delibera è finita con tanto di nome di bambini sul sito internet. Qui sta il passo in più che è stato fatto con eccesso di zelo, come dice il sindaco. Sindaco. Comunque, grazie Roberto. Vuole andare a Trento da Maurizio. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Beh, allora, sulla pubblicazione dei nomi nativi sono d'accordo con quanto è stato detto, cioè non doveva essere fatto. Però è anche vero che i debitori dovevano essere identificati e vengono identificati come genitori di quei bambini, per cui il nome e il cognome del bambino ha una logica che ci stia nel provvedimento. Era sensibilità pubblicarlo, magari mettendo solo le iniziali dei bambini, se proprio nel provvedimento. Cioè, dice, nel momento in cui c'era internet, il cognome del genitore è identificabile anche facilmente il bambino. Facilmente quello. Poi c'è anche da dire una cosa. Le determine o delibere che vengono pubblicate su internet proprio per questo motivo pubblicità che gli deve essere dato, molte volte riportano magari nell'oggetto solo il nome puntato, l'iniziale puntato, il nome e cognome della persona magari che ha avuto un procedimento disciplinare e così via. Alessandro Giglioli, effettivamente il fatto che siano riconoscibili i genitori, dice, i bambini a quel punto, insomma, se uno se li va a cercare è un conto, ma se quel nome rimane nelle cache della rete per e rimbalza di sito in sito, può rimanere il nome del bambino. Se io mi chiamo Paolo Bianchi e fra, o con un nome magari meno comune, e magari fra 10 anni cerco lavoro e si scopre che io vengo da una famiglia che non paga le rette, magari non mi danno un lavoro, cioè produco un danno diretto al bambino, a quello che diventerà l'ex bambino. Allora stiamo attenti, perché tutto questo deriva sicuramente da un problema di base che c'è in Italia, che è la scarsa conoscenza della rete e delle sue potenzialità. Io mi rendo conto che ci sono, come dire, funzionari che non sono tenuti a conoscerne i meccanismi, ma prima di usarla forse la rete dovrebbero un minimo conoscerla. Mettere online dei nomi e dei cognomi di bambini è una roba grave, non è un peccato veniale, è una roba molto grave. Io credo che in America per molto meno il sindaco avrebbe dovuto dare le dimissioni. Ora, io non chiedo al sindaco di dare le dimissioni, non me ne importa niente, anche se Ponte è un bellissimo paese in cui sono stato diverse volte, ma il discorso è che i politici italiani, i funzionari italiani in genere devono sapere che la rete va maneggiata con cura. Va benissimo la trasparenza, giustissimo pagare le tasse, per carità, giusto anche usare la reputazione online come uno strumento per costringere la gente, sì, a pagare. I maggiorenni, non i bambini. Non i bambini. Va bene, io mi devo fermare qui. Ringrazio Alessandro Giglioli dell'Espresso. Ricordo il blog suo Piovo Norane. Andate a visitarlo, è sempre molto, molto attento, molto interessante. Così come ringrazio il sindaco di Pont San Martin, Guido Ioia, e il sindaco di Tarzo, Treviso, Gianangelo Boff. Grazie per essere stati con noi. Continuate a votare il sondaggio. Do la linea Oscar Giannino, salutando e ringraziando anche Antonella Migliaccio in redazione. E Filippo Aureggi in regia. Cosa ridi, Filippo? Filippo Aureggi ride. Va bene. Linea Oscar Giannino, a domani.